Anche quest'anno migliaia di attivisti di Amnesty International saranno in tutte le piazze italiane per le giornate Amnesty 2004 che si svolgeranno sabato 18 e domenica 19 dicembre. È l'occasione per presentare le attività di un movimento che è da 43 anni impegnato nella difesa dei diritti umani e per raccogliere quei fondi che servono a rendere la nostra azione indipendente da interessi economici, autonoma, libera, orientata innanzitutto alla protezione delle vittime di abusi e violazioni dei diritti umani. Le giornate Amnesty di quest'anno sono dedicate alla violenza contro le donne, sono dedicate alla campagna di Amnesty International che riguarda cioè gli abusi nei confronti delle donne, soprattutto in Colombia e nel Sudan, dove migliaia di donne continuano a subire le peggiori conseguenze di conflitti ormai dimenticati. Con 7 euro si potranno acquistare le candele di Amnesty International, simbolo della nostra organizzazione, rivolgendosi al numero 06449023 è possibile ottenere informazioni sulle piazze in cui gli attivisti di Amnesty International allestiranno i punti di informazione, oppure sul sito www.amnesty.it. Sostenere Amnesty International nelle giornate Amnesty è un modo concreto per sostenere l'azione di un'organizzazione dalla parte delle vittime.